16.03 inizia questa domenica una nuova puntata di interferenze sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Quest'oggi ai microfoni ci sono Camilla e Francesca. Inizieremo questa puntata facendo una breve rassegna di quello che è successo durante questa settimana, per poi completare la puntata con una lettura. Ora vi lasciamo subito con un po' di musica, vi presenterà il pezzo che ascolteremo Francesca. Sì, oggi puntata di punk e rock al femminile, iniziamo con un gruppo che si chiama The 5-6-7-80s, un gruppo femminile rock giapponese che deve il suo nome proprio al fatto che la musica sia ispirata a quella al rock degli anni 50, 60, 70 e 80. Molti dei loro pezzi sono delle cover di pezzi rock statunitensi, appunto, anche se i testi sono prevalentemente in giapponese. È appunto un gruppo tutto al femminile che tra l'altro ha avuto anche, insomma, le loro musiche sono state anche utilizzate per alcuni film, tra cui Kill Bill. Vi lasciamo con un primo pezzo che si intitola I'm Blue. Buon ascolto. You better. prima di lasciarvi ad un altro pezzo, vi ricordiamo come di consueto i contatti della radio per scriverci nel corso della trasmissione. Quindi per il telefono fisso potete chiamare lo 011 24 95 669, il numero di cellulare 346 667 3263. Buon ascolto. Iniziamo quindi la rassegna stampa di oggi parlando appunto degli avvenimenti di questa settimana. Un avvenimento che è accaduto appunto verso inizio settimana riguarda le Femen, il collettivo ucraino che appunto ha fatto una protesta a Parigi dentro la cattedrale di Notre Dame. Questa protesta ha avuto luogo dove erano state esposte le nuove campane della cattedrale, e le Femen appunto hanno protestato e anzi diciamo più festeggiato per le dimissioni del Papa, quindi appunto festeggiando festeggiando queste dimissioni e sbattendo diversi oggetti contro queste campane, quindi portando l'attenzione verso la loro protesta. E già qualche settimana fa, ricordiamo, le Femen avevano fatto una protesta davanti a San Pietro durante l'Angelus del Papa, erano state poi brutalmente appunto portate via dalla sicurezza. Anche a Parigi non è stato diverso quello che è accaduto. Le Femen, queste ragazze che erano in 8, sono state portate tutte via di forza dalla cattedrale, denunciate, pluridenunciate, quando appunto il loro intento era quello di festeggiare, portare all'attenzione sempre una serie di problematiche che vivono le donne sul proprio corpo. Vi lasciamo ancora un pezzo del gruppo che vi abbiamo presentato prima, poi proseguiamo con la rassegna stampa. 16 e 15 in questo momento, allora siete sempre in ascolto di Interferenze, proseguiamo con la puntata, passiamo ad un'altra notizia che riguarda l'Irlanda, notizia che abbiamo appreso lunedì da Globalist, che però riporta la traduzione di un articolo uscito sul The Guardian, che tratta della vicenda delle cosiddette maddalene irlandesi, che erano le donne che a partire dagli anni 20 venivano rinchiuse in queste organizzazioni della Chiesa Cattolica, in cui erano costrette a lavorare in queste lavanderie, in cui subivano maltrattamenti di ogni tipo, appunto erano costrette a lavorare tra l'altro senza essere pagate per lavare le divise dell'esercito irlandese. Si trattava di donne che non rientravano, ecco, nei canoni di quella che era l'immagine della donna per la cattolica Irlanda, quindi si trattava di giovani donne, ragazze madri, prostitute o altro, che venivano appunto contro ogni loro diritto, venivano rinchiuse in questi spazi. Insomma, si tratta di un'esperienza che è andata avanti per molti anni e che è venuta poi definitivamente alla luce solo durante gli anni 90, quando uno scandalo appunto fece venire a galla tutto quello che stava dietro queste organizzazioni di alcune appunto alcuni ordini della Chiesa Cattolica. Nel 2011 il Comitato contro le Torture dell'ONU aveva chiesto al governo irlandese di avviare un'indagine sul trattamento che queste donne avevano subito. Si stima tra l'altro che appunto le donne vittime di questa esperienza siano più di 30.000, definendola appunto una forma di schiavismo. Oggi insomma queste donne che ormai anziane, che hanno subito questa esperienza, chiedono allo Stato irlandese di farsi carico di un risarcimento. Hanno minacciato di entrare in sciopero della fame se questo non avverrà, quindi insomma stiamo un po' a vedere quello che accadrà. Al momento sembra che insomma alcune di queste donne siano molto determinate, che quindi la minaccia dello sciopero sia piuttosto concreta se qualcosa non si muoverà, quindi insomma cercheremo di tenerci aggiornate sulla vicenda e di vedere eventuali nuovi sviluppi. A proposito di questo film, di questa vicenda, scusate, vi segnaliamo un film, appunto un film denuncia proprio su questi avvenimenti, si chiama Magdalene, un film del 2002, scritto e diretto da Peter Mullan, è proprio un film denuncia sui soprusi subiti da ragazze e giovani donne, rinnegate dalle famiglie oppure orfane, che appunto si macchiavano di peccati giudicati molto gravi. Per la ben pensante comunità cattolica irlandese, come diceva già prima Francesca, quindi è un film sicuramente molto, molto pesante, ma anche molto bello, che mette appunto alla luce questa problematica. Vi lasciamo un altro pezzo adesso. Questo è Bomb the Twist, sempre delle 5, 6, 7, 8. Buon ascolto. Thank you. 16:22, prima di proseguire con la puntata, di insomma concludere la rassegna stampa con un commento sull'iniziativa di One Billion Rising che si è tenuta un paio di giorni fa, cambiamo gruppo musicale e oggi ve ne presentiamo anche un altro, le Slater Kinney. Un gruppo di alternative rock statunitense formato da tre donne che suonano rispettivamente voce e chitarra, in due voci chitarra e una la batteria, che insomma ha avuto alcune trasformazioni nella formazione del gruppo nel tempo, ma che appunto ha insomma all'attivo diversi album e, insomma ha scritto diverse canzoni. Il nome deriva dall'omonima strada che attraversa il quartiere di Lacey di Washington, in cui appunto il gruppo è nato, e si ispirano ad artisti come Courtney Love, King Gordon eccetera. Ve ne facciamo ascoltare un primo pezzo, poi insomma ve ne proporremo altri. Per intanto questo è One More Hour, buon ascolto. Allora iniziamo un po' a parlare del terzo e ultimo argomento di questa puntata. Parliamo quindi dell'iniziativa che c'è stata il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, in tutto il mondo, un'iniziativa chiamata appunto One Billion Rising, creata da Eva Ensler, che è la scrittrice dei monologhi della vagina, che è un libro che ha avuto molto successo in questi ultimi tempi questa scrittrice ha voluto lanciare questa giornata proprio nella giornata tradizionalmente vista come la giornata degli innamorati, per trasformarla in una giornata in cui si facesse denuncia anche della violenza contro le donne. Questa giornata prevedeva appunto in diversi luoghi di tutto il mondo, anche in molte piazze d'Italia, dei balletti organizzati. Attraverso appunto questo balletto si intendeva denunciare quindi la violenza che ogni giorno subiscono miliardi di donne. Insomma, purtroppo però questa iniziativa, per quanto bella possa sembrare apparentemente con questa politica del balletto, in realtà cela dietro le proprie organizzatrici se non ora quando, quindi una politica che cerca soprattutto l'attenzione dei media mainstream in queste iniziative organizzate in piazza, una politica per la quale i valori principali sono il nazionalismo e anche il moralismo, quindi un'organizzazione politica che ha come soggetto di riferimento solamente l'opinione pubblica e non è invece uno spazio di conflitto esterno ad essa. Infatti purtroppo in diverse piazze d'Italia appunto questa è stata una vetrina, una passerella per tutte quelle donne politicanti che hanno voluto mettere il cappello su questa iniziativa e ballare anche loro per dimostrare quanto ci tengano loro stesse alla violenza contro le donne, loro stesse che poi sono le stesse che di violenza contro le donne insomma ne fanno tutti i giorni con le politiche di precarietà che costringono milioni di donne a fare decisioni che appunto le porterebbero alla precarietà assoluta oppure a donne di successo come vorrebbero essere loro. E queste donne di Se non ora quando inoltre appunto utilizzano come sole armi politiche quella delle istituzioni e quella del voto, appunto alla porta delle elezioni possiamo vedere come questo possa benissimo essere visto come una perfetta vetrina, una perfetta passerella per esprimere la vicinanza alle donne che scendono in piazza e quindi guadagnarsi anche dei voti. E questa giornata si inserisce perfettamente in una continuazione di quella che era stata la giornata lanciata per il 13 febbraio di 2 anni fa, nel 2011, dove milioni di donne appunto erano scese in piazza sotto lo slogan Se non ora quando, e dove avevamo visto una perfetta divisione moralista e retorica tra donne appunto divise in sante puttane, e come appunto la prostituzione venisse poi accolta e vista come un problema di ordine pubblico e decoro piuttosto che appunto un problema da affrontare in tutte le sue problematiche. Sì, infatti come ha ben detto Camilla, per quanto riguarda l'esperienza italiana sicuramente almeno nelle città maggiori è stata decisamente egemonizzata appunto dall'organizzazione di Se non ora quando, su cui appunto molto abbiamo già detto anche nei mesi scorsi. Per quanto riguarda invece insomma un po' la dimensione internazionale che poi anche questo evento voleva avere, appunto l'obiettivo era quello di raggiungere un miliardo di donne in tutto il mondo. C'è un articolo che è uscito sull'Huffington Post inglese che si intitola Perché non sopporterò One Billion Rising, che è appunto un po' slegato da quello che è il contesto italiano, quindi tutto quello legato a Se non ora quando alle elezioni, che invece fa una riflessione più generale su questa iniziativa, interrogandosi anche un po' su sul rischio che un'iniziativa di questo tipo possa, ecco, allontanare le vere cause della violenza sulle donne, non chiamandole col loro nome, istituendo così una sorta di momento liberatorio, una tantum, che appunto rimuove le vere cause della violenza, trasformandole appunto in una sorta di rappresentazione mediatica che va in scena in un giorno solo. Insomma, ci sono anche altri spunti interessanti, vi rimandiamo appunto all'articolo per chi fosse interessato, in inglese, ma insomma si riesce a coglierne gli aspetti più interessanti. E per quanto riguarda Torino, era insomma anche una cosa che volevamo segnalare, il commento di Repubblica, che insomma, oltre a aver dato ovviamente grande spazio a questa iniziativa, ha fatto un parallelismo quantomeno discutibile, affermando che in questo modo la giornata di San Valentino non era solo la giornata dell'amore, ma anche quella contro la violenza sulle donne. Quindi insomma, i commenti di Repubblica insomma ci lasciano sempre piuttosto perplessi. E adesso vi lasceremo con un'intervista realizzata dalla nostra inviata speciale Ilaria, realizzata appunto nella giornata di San Valentino, un'intervista ad Anna Curcio, che appunto riflette un po' su queste luci e ombre di questa giornata. Vi lasciamo con l'intervista e poi continuiamo con la puntata. Darci qualche spunto. Buongiorno Anna. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per avermi coinvolto in questa discussione che mi pare, insomma, gli spunti che Ilaria dava in apertura sono in qualche modo fanno da cornice a quello che potrebbe essere un discorso sulla violenza oggi e soprattutto a partire da questa iniziativa messa in campo oggi. Io credo che forse la prima cosa che vada detta è che sicuramente la violenza sulle donne è, ahimè, ahi noi, un fenomeno assolutamente trasversale che diciamo, colpisce in modo trasversale rispetto all'età, rispetto alle appartenenze di ceto, rispetto ai percorsi di vita, rispetto alle nazionalità. Insomma, abbiamo avuto modo negli anni, soprattutto negli ultimi anni, quando in qualche modo ha cominciato un po' a scoperchiarsi e a venir meno anche la paura delle denunce, c'è una presa di consapevolezza da parte delle donne in crescita, sicuramente non sufficiente, ma sicuramente in crescita rispetto ai decenni passati. Insomma, abbiamo potuto vedere come la violenza sulle donne è un fenomeno assolutamente trasversale che interessa tutte le donne. Credo che però questo non sia forse sufficiente e adeguato diciamo, per immaginare che tutte le donne possano banalmente soltanto a partire dal loro essere donne costruire percorsi di resistenza a questo. No, io purtroppo sento un eco tremendo nel telefono. Sì, proviamo a sistemare i microfoni un attimo, se... Sì, grazie. Così può andare meglio? Vediamo. In realtà ho l'eco della mia voce che un po' mi confonde nelle cose che dico, però vabbè, provo ad andare avanti lo stesso. Okay. Quindi diciamo, credo che Ilaria sottolineava, costruire un'iniziativa contro la violenza sulle donne, che però non tenga conto di quelle che sono anche le diverse condizioni che le donne vivono, per quanto parliamo di un fenomeno trasversale, forse non è, diciamo, la cosa più consona e più adeguata, non è forse il modo più opportuno per intervenire rispetto a questa questione, insomma. Sì, credo che a proposito appunto di come è stata accolta in Italia l'invito a questa manifestazione sia abbastanza indicativo il fatto che chi ha accolto l'invito sono soprattutto i comitati provenienti dall'esperienza Se non ora quando, insomma, legati a doppia manica con il PD, insomma, un po' funzionale alla dinamica elettorale rispetto a questo. Sì, forse più complessivamente possiamo dire che in Italia almeno quella parte del femminismo mainstream che si ritrova o si riconosce dentro l'esperienza di Se non ora quando ha un po' difficoltà, diciamola così, a prendere atto e a considerare e a ragionare sulle differenze che attraversano poi il banalmente essere donna. E se vogliamo, questo è un po' una difficoltà, un limite, se possiamo dire, di un certo femminismo italiano, che forse non ha pienamente fatto suo le critiche che nella seconda metà degli anni Ottanta le femministe del cosiddetto terzo mondo hanno mosso al pensiero femminista più complessivo. C'è tutto un dibattito che, a partire proprio dalla conferenza di Nairobi nel 1985, ha posto il problema dei limiti di una sorveglianza universale, a partire da quelle che erano le esperienze soprattutto delle donne black chicane all'interno delle lotte per i movimenti civili negli Stati Uniti, all'interno dell'esperienza del Black Power, insomma, a partire da tutto quei movimenti che hanno in qualche modo rimesso in discussione le dinamiche sociali più complessive, che però vagavano in qualche modo la difficoltà di pagavano, diciamo, la difficoltà di non aver prestato adeguatamente attenzione appunto alla differenza di genere. Dunque, a partire dalla presa di consapevolezza di una differenza specifica all'interno di movimenti di liberazione più complessivi, è stata mossa una critica a quello che invece era un discorso femminista che aveva posto la questione femminile al di là di ogni differenza. Ecco, io credo che forse all'interno del dibattito italiano varrebbe la pena cominciare in modo più incisivo, non perché non ci siano esperienze di questo tipo, ma allargare il campo di discussione rispetto a quelle che sono poi state le critiche che il cosiddetto femminismo postcoloniale o femminismo delle donne del terzo mondo, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, ha mosso a quel femminismo in qualche modo anche identitario, con delle scivolate identitarie che invece mi pare che essere quello che ancora per certi versi, almeno nel mainstream in italiano, rimane un po' la condizione. Ecco, e mi pare che dentro One Million Rising oggi confluisce un po' questo limite, questa incapacità di cogliere appunto le differenze. È vero, ripeto, che la violenza sulle donne è una questione assolutamente trasversale, è vero però che gli strumenti che vanno messi in campo non possono tener conto che le donne vivono condizioni materiali di vita differenti, che dipendono dal fatto appunto della condizione sociale e materiale che vivono, dipendono dal fatto da quale nazionalità vengono, che nazionalità appartengono, cioè, dipende da tutta una serie di questioni che non possono essere annullate nel banalmente essere tutte donne, ecco. Certo, poi in Italia il momento elettorale strumentalmente, come un po' l'esperienza appunto di se non ora quando, insomma, dire siamo contro la violenza sulle donne mi sembra un po' che siano buoni tutti, certo. Poi quando si guarda ad altri punti di vista rispetto alla violenza sulle donne, come la possibilità di avere un lavoro, come la possibilità di uscire dal precariato, come certo. Poter gestire in maniera sensata e non ricattatoria tutta una serie di dinamiche, quelli che si dichiarano contro la violenza sulle donne sono i primi a girarsi dall'altra parte, insomma. Certo, guarda, perché poi andrebbe assolutamente in linea con quello che dici, credo che sia molto importante questo discorso, cioè capire qual è la violenza sulle donne di cui stiamo parlando, perché comunque ci sono forme anche oggi come oggi, forme anche più sottili, non riconosciute di violenza, che hanno a che fare con la condizione di precarietà e ricatti continui che quotidianamente le donne, soprattutto, non solo le donne perché anche gli uomini ovviamente, ma magari le donne con delle specificità, o la violenza rispetto anche all'opportunità, la possibilità di scegliere rispetto alla propria vita riproduttiva. Nella precarietà spesso le donne rinunciano alla maternità, e questo potrebbe essere un'altra dimensione per esempio di violenza, il continuo ricatto anche rispetto al lavoro, insomma ci sono tante declinazioni che si possono dare rispetto alla violenza sulle donne e che forse l'iniziativa di oggi un po' perde di vista. E poi c'è sempre un po' quell'atteggiamento, mi pare quell'atteggiamento un po' maternalista, se vogliamo, solidale verso i più deboli, cioè noi siamo le donne in qualche modo colte che riescono ad avere un discorso di rifiuto sulla violenza e siamo qui pronte ad aiutare invece le donne poverette, magari migranti, perché poi c'è tutta in Italia la declinazione della violenza sulle donne, declinata nella specifica esperienza delle migrazioni, mi viene in mente il grande clamore che ha suscitato l'episodio assolutamente orribile della ragazza pakistana che alcuni anni fa è stata uccisa dal fratello e dal padre perché aveva una relazione con un ragazzo italiano, una cosa assolutamente deprecabile, per carità, che però ha montato tutta una questione sulla questione della compatibilità di alcune dimensioni culturali all'interno del contesto italiano, che insomma è stata veramente una strumentalizzazione e una forzatura, ecco. Allora questo atteggiamento di assumere la difesa delle donne più deboli, che poi sono le donne magari migranti, quindi donne in qualche modo di seconda categoria, insomma diventa una questione assolutamente problematica che andrebbe messa in discussione profondamente. Certo, noi comunque non è che mettiamo in dubbio la buona volontà e le buone intenzioni di chi in piazza scende con un'idea ben precisa. Perché poi un milione di donne, insomma, sono un milione di donne, per cui ci sarà ci saranno tante donne che avranno un atteggiamento positivo, anche di critica a questa cosa. Ecco, forse il cappello politico che invece è stato messo sopra l'iniziativa va un po' decostruito. Certo, noi speriamo che questo spunto possa dare anche modo agli ascoltatori di fare un ragionamento critico rispetto a queste tematiche e, insomma, ti ringraziamo molto per il tempo che ci hai dedicato e invitiamo comunque tutti a tenere d'occhio anche le modalità con cui altri tipi di eventi si danno rispetto alla violenza sulle donne. Adesso così su due piedi mi viene in mente il fatto che è una pratica abbastanza riconosciuta all'interno del movimento femminista italiano, quello di partecipare per esempio ai processi per stupro, di portare solidarietà in quei momenti lì, che sono i momenti decisamente certo, magari più difficili, anche dare una valenza politica a quei momenti lì, come certo, è stato ultimamente al processo all'Aquila, che insomma ha dato un esempio di come fare attività politica contro la violenza sulle donne possa essere molto molto concreta. Certo, assolutamente. Va bene. Okay, vi ringrazio molto, spero di aver contribuito in qualche modo alla discussione. Ok, questa quindi era l'intervista ad Anna Curcio che volevamo riproporvi. Vi lasciamo ancora un pezzo sempre delle Little Kenya e poi andiamo a concludere questa puntata. See what you feel, oh, oh. 16:49 ci avviamo dunque verso la fine di questa puntata e in conclusione appunto abbiamo la nostra consueta lettura. Questa volta la lettura è di un pezzo di Annie Sprinkle, un artista post porno molto, molto famosa. Questo pezzo si chiama 40 Reasons Why Wars Are My Heroes, cioè 40 ragioni sul perché le puttane sono le mie eroine. E insomma, in questi 10 minuti vi leggeremo questo pezzo e poi vi saluteremo e vi lasceremo in compagnia di Animal Radio. Le puttane hanno un buon senso dell'umorismo. Le puttane sfidano le usanze sessuali, sono divertenti, sono tenaci. Numero 5. Le puttane hanno una carriera che si basa sul dare piacere. Le puttane sono creative, sono avventurose e hanno il coraggio di vivere pericolosamente. Le puttane insegnano alle persone come essere amanti migliori. Le puttane sono multiculturali e multigendere. Le puttane danno ottimi consigli e aiutano le persone a risolvere i loro problemi personali. Le puttane si divertono, le puttane indossano vestiti eccitanti, hanno pazienza e tolleranza con persone che altre persone non sono mai riuscite a sopportare. Numero 14. Le puttane fanno sentire meno sole le persone sole. Numero 15. Le puttane sono indipendenti. Numero 16. Le puttane insegnano alle persone come fare sesso più sicuro. Le puttane sono una tradizione. Numero 18. Le puttane sono focose alla moda, le puttane sono spiriti liberi. Le puttane alleviano milioni di persone dallo stress e dalla tensione. Le puttane guariscono, le puttane sopportano i violenti pregiudizi. puttane si fanno i soldi. Le puttane hanno sempre un lavoro. Le puttane sono sexy ed erotiche. Le puttane hanno un talento speciale che gli altri non hanno. Non tutti hanno ciò che serve per essere una puttana. '27. Le puttane sono persone interessanti, con molte ed eccitante storie di vita da raccontare. Le puttane scopano un sacco, aiutano le persone a esplorare i loro desideri sessuali. Le puttane esplorano i propri desideri sessuali. Le puttane non hanno paura del sesso. Le puttane si affrettano, le puttane brillano, le puttane fanno divertire e hanno la faccia tosta di indossare parrucche stravaganti. Le puttane non si vergognano di essere nude, le puttane aiutano gli handicappati, le puttane non timbrano il cartellino, si ribellano contro l'assurda e patriarcale legge contro la loro professione e combattono per i diritti legali e per ottenere un compenso per il loro prezioso lavoro. E tu? Hai quello che serve per essere una puttana?